Oltre al modo che Eliezer Aran ci vuole ingannare, di cui abbiamo parlato a lungo nelle precedenti lezioni, ora ci fa presente qui il Rebbe Rashab. C'è un altro problema che dobbiamo affrontare nel nostro, nel, diciamo così, la nostra lotta con Eliezer Aran. Qual è? Od zot humi pituyei a Yetzer Hara. Un'altra delle, diciamo, Tentazioni. tentazioni, tentazioni di seduzione, diciamo, di sedurre, che Eliezer Hara cerca di fare, Shemefatehu lo inganna, lo fa credere, Shelo yirenu Adam. Guarda, se tu fai questo, tanto nessuno ti becca, nessuno ti vede, nessuno lo sa. Chi abba la vera Rahman Alitzan, perché il peccatore è in orozè, non vuole sceglie du bene Adam che le altre persone sappiano rishato, orato, diciamo, i suoi fallimenti morali, no? Nessuno vuole che l'altro sa. Come disse anche Rabban Yochanan ben Zakkai, Moshe Amar, le Talmidav, disse Rabban ben Yochanan ben Zakkai ai suoi allievi, prima di morire cosa gli disse, scritto nel trattato di Berachot, Yehi Ratzon, che sia la volontà del cielo, Shetehe Mora Shamaim Alechem, che Mora Basar Vadam, che il timore del cielo sia su di voi, così come lo è il timore di un'altra persona. Gli dissero i suoi allievi, che erano tutti grandi maestri e tzaddikim, cosa credi che siamo, dei bambini? Che il nostro timore del cielo deve essere simile, magari sia simile al timore di un'altra persona? Amerul lo talmidav, dissero a lui i suoi allievi, ad kan, solo questo? Solo questo ti auguri per noi, i tuoi allievi? Bit mia, dice Rashi, meraviglia chiedevano. Ve lo yotermi, Moraba Sarvadam? Non credi che dobbiamo avere timore del cielo più di quanto uno ha timore di un altro uomo? Amar, rispose il maestro Rabban Yochanan, Ulevai, magari, come dicono a Roma, magara, Shehei che Moraba Sarvadam, magari fosse il nostro timore del cielo come è il nostro timore di un altro uomo. Shem Ken, perché se così fosse, se fosse anche solamente questo, Techdelu me averot arbe, cesserete tanti dei vostri peccati. Tedu, gli disse il rabbino Rabban Yochanan, la prova di questa cosa, che se Adamo vera vera, quando o qualora una persona trasgredisce, fa un peccato, beseter di nascosto, perché lo fa di nascosto? Mimorah haberiot, per il timore delle altre persone. Veyodea, ma anche se sa al tempo stesso, Sheakol hu galui l'Hakadosh Baruch Hu, che tutto è rivelato, aperto dinanzi al Hakadosh Baruch Hu. Veino maniach bekach, ma questo non lo fa desistere dalla sua trasgressione. Omer cosa dice invece nel cuore suo? Shelo yirani Adam, spero che nessuno mi veda, nessun uomo mi veda. Cioè la persona può anche sapere e credere che HaKadosh Baruch Hu vede tutto, ma al tempo stesso non è necessariamente sufficiente per farlo cambiare una strada negativa. L'importante è che gli uomini non mi vedono, dice. Quello che abbiamo anche approfondito un po' durante la lezione di Lag BaOmer, no? Cioè il concetto della Emunah che può rimanere trascendente, non... cioè questo non significa che una persona non crede, crede, ma quella fede non è sufficiente per farlo cambiare strada in quel momento. E questo approfondiremo. Qui lo vediamo dal punto di vista dello Yetzer Hara, diciamo. Cioè questa è una maniera, uno degli strumenti, se vogliamo, dello Yetzer Hara per fare che la persona segua la sua strada. E di dirgli tanto nessuno vede, tanto nessuno sa. Ubaze mefateu yitzro. Ed è proprio questo, diciamo, l'inganno che viene sedotto dallo Yetzer, se lo Irenu Adam, che nessuno mi veda, ve lo Yeidu, e quindi la gente non saprà, non verrà a sapere, Inyanav Haraim, gli aspetti negativi della persona. Anche se la verità non è così, Ubemet e Inoken, la realtà non è questa. Sheakol Roim Veyodim Umakirim. In realtà tutti sanno, vedono e riconoscono la persona per quella che è. Chi lo Yimalet, perché non c'è scampo, Sheyase Eised Varim, che se una persona ha un comportamento negativo, sicuramente qualche diciamo sfumatura di questo comportamento viene fuori anche quando si trova tra le persone. Sheyu Hashudim Beine Abriot, che dicono: ma questa cosa che lui si comporta è un po' sospetta, perché si comporta così? Chi Behemet, perché la verità è che Merov Hatavot Shemitzada Satata Yetzer, a causa dei molti desideri, tentazioni, nelle quali cade per la seduzione degli Yetzer Hara, allora Osek Amashtutim, Stuyot si direbbe oggi in ebraico, fa diverse cose folli, come abbiamo parlato all'inizio della follia, no? Shebazena se Hashud Bein Ebne Adam, diventa un po' sospetto agli occhi delle persone, Venotnim da Atam Alav, e allora iniziano a pensare: ma questo perché si sta comportando così? Diventano curiosi, Lei Dainyana, per capire meglio la sua natura. Come possiamo vedere in maniera evidente che Bekame Nyanim Shonim, in vari comportamenti di una persona, Bedibur, il modo di parlare, Bitnuot Shonot, il modo di muoversi, Se Adam Beatzmo Megale Nyanav Apnimim Kiberahu, la persona stessa rivela quello che lui è, anche se non è intenzionato a rivelarlo, attraverso il comportamento, il linguaggio del corpo, eccetera. Bravo, linguaggio del corpo, tnuot. E non si intende, adesso dirà, che cose negative o vietate, ma semplicemente il suo comportamento. Ben a kavanali nanei sur, non cose vietate, bedibur, cosa significa cose vietate nella parola? Che mosheker, falsità, non è che diciamo che lui parla falso, o rechilut, o lashonara, o maldicenza, o raccontare cose di altre persone, o di vrei nibul, o parlare in maniera volgare. No, non questo. È la kavana, il senso è, e gam che c'è mesapere ise sipur, anche quando racconta qualcosa, di lechorai no elak mosfat yeter vedibur shel batara, che non è altro che una storiella innocente, diciamo, che si racconta tra persone. In questo esprimersi stesso, in Bedibur ze yeshbogi lui primiutara. Proprio come dicevamo, con il linguaggio del corpo e con qualsiasi conversazione potrebbe uscire fuori il male che c'è dentro. Anche lo sguardo, Genu Binyana Reya, non solo la parola, ma anche lo sguardo, le famimine beabata shelistaklut, quando una persona guarda una cosa, shebabit bemakom, guarda in un luogo, sheentzrichim leabit, che non si dovrebbe guardare, in ebase adam megalet kol omekara shebo, la persona rivela che c'è un male, c'è qualcosa dentro di sé che non va bene. Anche se la gente non vede, begamim bembene adam mustar venelam masavaraim, anche se riesce a nascondersi bene il suo male, halol e fanavit barach galui viadu akol, come abbiamo tornato a quello che dicevamo prima, davanti ad Akadosh Baruch Hu è tutto aperto. Kmosh ekatuv, come è scritto nel profeta Irmiyahu, im yisater ish bemistarim vani lo erenu, se una persona si nasconde in un luogo nascosto, segreto, forse io non lo vedrò. Uke ma'amar, e come è detto, lo diciamo nel Musaf di Rosh Hashanah, hakol galui viadu lefanecha, tutto è rivelato e aperto dinanzi a te, en davar ne'elam mimecha, non c'è nulla che è nascosto da te, ven nistar mineged enecha, non c'è nulla che è appunto nascosto da davanti ai tuoi occhi. La prima cosa è Caino che scappava dall'occhio di Dio. Nahon, Cain, che ha detto... Non sapeva più dove andare. No, prima ancora di lui Adamo e Chava si sono nascosti. Sì, anche sì, perché hanno fatto il No, peccato. hanno cercato di Ma nascondersi. Caino è più, c'è l'astocchio sempre su di lui. E HaKadosh Baruch Hu modi omigalegna navlakol. E se HaKadosh Baruch Hu sa quello che succede dentro la persona, riesce anche a farlo rivelare, che anche le persone possono, come dicevamo prima, capirlo. Che Ma'amar Rabboteinu Zichronam Livracha, i maestri hanno insegnato nella Mishnah, che è proprio la Mishnah che abbiamo studiato questo Shabbat, nel quarto capitolo del Pirkei Avot, Kol HaMechallel, e ne abbiamo parlato anche nel Darshan sabato mattina, Kol HaMechallel Shem Shamayim Baseter, chiunque profana il nome di Dio, Da pubblico anche di nascosto, Nifrei Mimeno Begalui, viene punito in maniera rivelata. anche. Questa è la prova di questo. Sei bravo. E Rashi Interessante. spiega, bisogna approfondire quello che dice Rashi in quel caso sul trattato di Avot, di Pirkei Avot. Rashi dice così, Peresh Rashi, HaMechallel Shem Shamayim Baseter. Cosa significa uno che profana il nome di Dio in nascosto? Vuol dire che fa un peccato. Se overa verà baseter. Ok? Nel senso che normalmente quando si dice profanare il nome di Dio si intende fare qualcosa in pubblico. In pubblico una persona va contro la parola di Hashem. Questo significa chillul Hashem, vero, la vera profanazione. Ma non di questo stiamo parlando qui, perché la Mishnah dice di nascosto. Ok? Il senso è che sta facendo un peccato, però di nascosto. Allora, saltiamo la parentesi. Nifrain mimenu begalui. La terza riga. La punizione viene fatta in pubblico. Cioè, che significa la punizione viene fatta in pubblica? Che HaKadosh Baruch Hu megalle la kol cherpato. Semplicemente che HaKadosh Baruch Hu fa sì che la gente capisca, sappia, venga a sapere della sua vergogna. Shneemar, come detto nel Mishlei, nei Proverbi, Tikaseh sinah b'mashaon, tigaleh ra'ato b'kahal, che la persona che copre il proprio odio attraverso furbizia, la furbizia riesce a coprire il proprio problema, il proprio peccato, ma il suo male sarà rivelato b'kahal, in pubblico. E Rashi spiega lì che questo significa che una persona che si di nascosto fa delle cose oscure, cioè comportamenti non voluti, che è odiato davanti ad HaKadosh Baruch Hu, allora HaKadosh Baruch Hu alla fine fa sì che la gente sappia questa malvagità, che la persona è un malvagio. Perché? Kol kach lama, di nuovo saltiamo la parentesi, tutto ciò perché? In pubblico, sempre là. Shelo yitchallel Shem Shamayim al Yadò, perché il nome di Dio non si continui a essere profanato per sua causa. Perché se non si conosce in pubblico la verità che lui è un malvagio, Quello allora continua. potrebbe sembrare il contrario, potrebbe dire, ah, guarda questo, Shelo yamru, che la gente non dica, Ra'ita ploni, hai visto questo su Chacham, questo qui è un Chacham, ve'osem ma'asim tovim, e fa cose buone, Upagu bozzarot kol kach, ma guarda quanto soffre, poveraccio, non dovrebbe soffrire. Invece, se non è la verità che lui è chacham, è bravo, eccetera, eccetera, HaKadosh Baruch Hu fa sì che la gente lo capisca, che venga fuori, che non danno la colpa, per così dire, a HaKadosh Baruch Hu per i problemi di questa persona. Lì diventerebbe la profanazione del nome in pubblico. Capito? Allora, in questo senso, dice Rashi, verrebbe fuori quello che dice nella Mishnah: chi fa il peccato in privato, profana il nome di Hashem in privato, comunque diventa una cosa pubblica. E chiaramente il fatto di pensare non mi vede nessuno, umashem efateu shelo yirenu Adam, urak mishtutea yetzerara, fa parte della follia del yetzerara, Hashem yishmerenu mehem, che HaKadosh Baruch Hu ci guardi da queste follie, she'anu ro'im bemuchash betivei bnei Adam. Noi vediamo il carattere, la natura delle persone, che ci sono diverse nature e caratteri di persone, ovviamente. Elu shem balei mezek dak. Sono persone che sono più raffinate, eidele menschen, dice in Yiddish, più raffinate, Ubalei sechel, o più intelligenti, che cioè usano più la mente che l'istinto, in amalulim kol kach non sono così suscettibili, kabeli non ishtut, di accettare queste follie come potrebbero essere persone che sono meno raffinate, come ubalei mese gas, più base come carattere. Ubalei midot, persone che sono più gestite dai loro istinti rispetto al piuttosto che la loro, il loro intelletto, cioè ubalei midot. Ne bitragshutam ve godelit palutam, proprio per l'eccitazione, questo carattere più, come dire, sentimentale, no? Che intellettuale. Alulim le kabeli nane ashtut vatayash matim et atzmam. Hanno più suscettibilità ad accettare, ad essere recettivi a questi aspetti della follia dello Yetzer Hara, perché si possono più facilmente deludere o ingannare meglio. Shemat imet atzmam, si potrebbero ingannare. Ve a Yetzer Hara li yotob bahami, e lo Yetzer Hara, essendo, sì, 45, essendo animalesco, bahami, animalesco come behemà, no? Animal. Ubal midot, anche lo Yetzer Hara è gestito più dalle emozioni che dall'intelletto. Allora trova sintonia nel carattere che è più emotivo rispetto a freddo, diciamo, intellettuale. In emme fateta, adam be kamen anima. Allora riesce a sedurre la persona in varie maniere. Verachamana litzlan, e Dio ce ne scampi, amitneheg, colui che si comporta al pi hora ata Yetzer Hara, secondo le indicazioni dello Yetzer Hara, mekabel shtutove asatata Yetzer Hara, accetta la follia e si fa persuadere dallo Yetzer Hara, venit melo shenish yodenin avlotovim, e quindi si immagina nella sua immaginazione che nessuno sa quello che io faccio, non faccio, penso, non penso, eccetera. Allora, ricapitolando qui nella Kitzur, cioè nel riassunto, Adam betivò, la persona per natura, ha yeshlo mora, ha timore di un'altra persona. Cioè la persona per natura ama la propria privacy. Shazulat lo yedainyanav, che nessuno sappia cosa succede dentro di lui, nel suo privato. Morashama e Gaminian Avraim, che non vuole che gli altri sappiano le sue cose, e anche specialmente le sue cose negative. Morashamaim che Moraba Sarvadam. Il timore del cielo, abbiamo detto, deve essere almeno come il timore che abbiamo nei confronti di un'altra persona. Questo è proprio per natura. La persona, però, attraverso i suoi comportamenti, la sua parola, il suo linguaggio del corpo, comunque esprime quello che è. E HaKadosh Baruch Hu fa sì che se c'è qualcosa di grave contro HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu lo fa sapere in qualche maniera al pubblico. Ma tutto questo deriva da quello che abbiamo parlato all'inizio, della follia dello Yetzer Hara, che inganna la persona. E questo inganno va mano in mano con la natura umana che si vuole mantenere come un muro, che la gente può vedere solo fino a un certo punto e oltre questo non può vedere. Ma la verità è che è una follia, cioè la verità è che non è così ed è solamente questa una delle maniere che la Yetzer Hara impiega per portarci nella sua rete, diciamo così. La prossima volta vedremo ancora una terza metodologia impiegata dallo Yetzer Hara.